Mari non mi ha risposto, che ehi, no, io stavo ascoltando anche in PMR, tanto non c'era nessuno, stavo ascoltando lì. Beh, Marco, per carità, sta diventando adesso lo spacco, ecco, però sui cibi, vabbè, i miei sogni di gloria infanti, dovevamo andare, puntualmente arrivano le tre e non è voglia di andare, ma a Platamona, e per andare solo mi sono fatto un po' di manutenzione alla macchina, olio che c'era già, liquido radiatore che poi c'era già, ho riempito la vaschetta a spruzzare vetri. Dopodiché sono andato in garage, ho provato a vedere se la moto partiva, prima ha dato un accenno di quasi di come se fosse a zero, poi partita, dopo tutti questi mesi che è stata ferma è partita la moto, quindi bisogna caricargli la batteria, lo farò prima di fare l'assicurazione, li carico la batteria bene e poi la rimetto sopra. E finalmente mi godo di nuovo la moto, se ne parlerà fra mese prossimo, dai, fine mese prossimo, forse. Batteria vuole sempre carica, metterla in moto ogni tanto, sennò poi non parti più, travagava. Avanti, andata lì. No, già gliela carico col caricabatterie. È ereditato dal nonno, bel caricabatterie grande, anche per camion, fa 12 e 24 volte. Una bella bestia, là. Se lo vuoi comprare costa un bel, me lo sono accaparrato io, visto che lo lasciavano a marcire nel garage a fare ruggine, ma sono preso io. E cosa? Come, Claudio? Cosa te l'hai preso tu? Lo scooter? No, il caricabatterie è grosso, è un bel caricabatterie, funziona anche a 24 volte. Ah, capito. Via. Va bene. Avanti, Natalie, te sei fatta andando? E non rispondi. C'ha questi cali di coso, come ha detto Vale di Viri, non è erettivo. Ah, erettivo, erettivo. Una cosa del genere, ho sentito erezione, o un termine simile. Non è reattivo, così come so, bene mio. Insomma, non sono il solo a stare a casa, Natalina è sempre a casa, tu sei sempre a casa. Oggi vabbè, non se ne è fatto niente, anche se io sarei andato. E vabbè, dunque mi fa piacere che la moto sia partita. Poi quando sarà, prima di metterla in auge, in moto, cioè di farla uscire in strada, carico la batteria bene, gonfio le gomme bene, che c'ho doppia pompa a pedale, è presente quelle pompe col pistone a pedale per gonfiare le gomme della macchina, della moto, e ce l'ho doppia pompa, doppio pistone, e le gonfia davvero, c'è il manometro anche se è sballato, però almeno gonfia, capito? Poi già vado al distributore e gli faccio il gonfiaggio 2-2, 2 atmosfere, capito? Qui sotto c'è Corso Biglia, c'è sotto i parenti, parentame. Non uscire, sì. Poi io ve l'ho messo avanti, hanno lavorato, mi sono andato alle 5 metri. Capito? Sono uscito, erano le 6:10, 6:15, sono entrato che erano le 2. Quindi ho pranzato, tanto l'uomo e mia moglie solo, mia figlia rientra a casa al lavoro, lo stesso, perciò mi sono coricato un po', alle 5 mi sono pranzato e mi sono seduto qua, stavo un po' girovagando in HF e poi ho sentito che in PMR c'era qualcuno, mi sono messo l'ascolto lì. Tutto qua. Ho chiamato Natalino, non mi ha risposto. Natalino sta marciando male. Natalia, io, lui prendi. Va e vieni. fatto perché era una bella giornata e è stata sprecata, diciamo, dai. Sono rimasto stupito invece che è partito lo scooter. Prima accennato, no, a fanno fare, no, che sembra gampa, poi sfiorato l'acceleratore per non stancare la batteria, è partita. Incredibile, guarda, incredibile. E insomma, già la rimetto a funzionare la moto, così ad aprile mi faccio a porco. Quando devo fare commissioni non piglio la macchina a dannarmi l'anima, quando vai da Fusaro in macchina non c'è mai posto, mai, mai. Allora ti devi mettere su un marciapiede a destra, su un marciapiede, e non sempre lo trovi anche lì. E insomma, in moto faccio un bel di commissioni durante la giornata, in macchina non riesci a farne. Poi con la moto, guarda, la cosa positiva, puoi andare al centro dove c'è traffico limitato, la ZTL, mentre in macchina puoi entrare solo a certi orari, insomma, più pratica, eh? Non beh, certo, no, no, io anche se non riuscio, sia la piccola che la grande, mi metto molto di tanto. Mi metto molto di tanto, lì che stava piovendo, come siete due moto, siete scaldare, pochino, un pochino spente. Rimasto un po' giù, sotto il porticato, e vedi poi come vai a prendere un casino, ti serve all'improvviso, non parte, e niente. Ma qualche mattina se c'era un freddo, minchia, questa maglietta, dice ogni unità, tua bagnata c'era, cosa vai in moto a lavorare, ancora troppo presto, troppo presto. Anche con quella grande non fa troppo, anzi con quella prende ancora più freddo, con la piccola già c'è ancora brezza, ma con la grande la strada non fa troppo freddo, c'è Marco, troppo freddo, capito? E quindi niente, aspettiamo un tempo bello per uscire molto e se no ti ammali, capito? Lì, ma già sei bella, si può sapere, sei contenti, non contanno. E me lo potete far rispondere al cane. E non manco gioco di vicino. E io quando non ci sono, dico, Filippo, vai a rispondere a Marco, solo che Filippo teme il pipistrello e la non risponde. Ehi, ehi. Sì, ma una curiosità, ma la moto piccola, lo scooter piccolo che hai Claudio, ce l'ha la breccia? Sì, sì, sì, ce l'ha la parabrezza, c'è tutto, mentre l'altra no, l'altra è la strada, capito? Quella non è la parabrezza, quella se non c'è giornata calda, ti arriva tutto il vento al petto, discende in decia, anche se io ho più voto tutto per quella moto. Meno male che non l'avevo là, ma l'avevo tenuto tanto, sapevo prima come l'avevo comprato. Sì, sì, quella piccola c'ha il parabrezza, c'ha tutto. Sto usando sino all'altro giorno, mi. Le giornate belle che. Le giornate belle l'ho usata. Ma adesso questi giorni c'è un bel freddo la mattina, di sugar. Sì, allora che sì, tu sì. Ma sai, io già lo sai, mi alzo tardi, di mattina esco tardi, quindi per me non ci sarebbe problema. Guarda, io prima avevo moto la 400 Four, notte moto, parabrezza non ne aveva. Da quando ho scoperto il parabrezza con questo scooter è un bijou, Claudio. L'inverno il parabrezza ti salva da raffreddori, da accidenti forti. È un bijou, guarda, perché se tu provi a spostarti di lato, no? Provi a spostare il viso oltre il parabrezza, senti un bel di vento. E il parabrezza è per me è stata una scoperta formidabile. Solo in estate al limite lo puoi togliere, estate con una fesseria da levare. Però poi in estate di notte c'è lo stesso freddo e umidità, quindi conviene non levarlo. Un bijou proprio, un bijou. Ora capisco qual è la qualità del parabrezza. Prima dicevo, vabbè, è da signor Ruti il parabrezza, infatti gli è troppo comodo. Da signor Ruti, ma a prescindere, il Gino c'è a 525. A prescindere da quello, ma anche d'estate, dalle moschine, dai mosconi, da tutte le cose estive, capito? Ti salva, a me non ti piglia la faccia al casco, se no devi tenere, io ho il casco con la visiera che si abbassa, uso quello, anche se con quella piccola potrei usare l'altro, gli occhiali, no? Che è più leggero, ma uso lui lo stesso, perché quei buffoni, quelli ti prendono la faccia, dice mi decine anche quando stai camminando, capito? Quella piccola via cammina, non è un 125. Quindi è meglio se mi lasciato per la durezza, sia d'estate che d'inverno, io non ne lo tolgo mai, capito miei? Vabbè, gli anni invece non si è sentito che adesso sono le 6, avanti una carica. L'ho lasciata in moto, c'avevo anche la mascherina antiodori, quella a carbone attivo. È una pietra quel buco, è una pietra, se stai camminando che ti prende a testa, proprio nel becco dove non c'hai il casco, la visiera, oppure ti entra in mezzo dove c'è gli orecchi, no? Perché anche se c'è la visiera, la parte degli orecchi c'è sempre quello spazietto, no? Se ti prende lì, cagge, ti scegli in deci, ti ammazzi. Quindi è meglio sempre averlo per la brezza, perché rimane alto il mio, ricopre anche qualche volta mi ha trovato quella più girinina, leggera, non forte, salendo la carica e no, non mi sono neanche bagnato, capito? Quindi è meglio sempre lasciarlo. Perché ho tenuto tutti le critiche. Anche a me non piace, però io guardo la mia comodità, Marco. Sì, è vero. Allora, a Vela 3, tanti anni fa, lui era in velocità con una moto da corsa, non so cosa fosse, una moto da strada, ha beccato in velocità un passero, vicino all'occhio l'ha beccato, dice gli ha fatto una faccia così, se l'avesse preso in pieno occhio l'avrebbe fatto cieco, lo sai, cioè quando ti viene il bubone all'occhio proprio tu viola, così, un passero mi, cioè se già il bubone è un proiettile che c'è una granata. Ma quei buboni sono pietre, quelli lì, i grandi, capito? Quelli volano e poi stanno anche per terra. Cazzo, un gigante, se tu vuoi schiacciarlo, fai fatica a schiacciarlo, capito? Sono durissimi, durissimi. E bisogna vedere anche se c'è la possibilità anche che non porta la testa, attento, quindi, però è pericoloso. La moto ci vogliono le protezioni, se no è un casino, per qualsiasi cosa, capito? Per le vespe, per le api, le vespe, insomma tutto quello, e soprattutto le moschine d'estate, quando c'è caldo sono micidiate, e quindi meglio così. Vabbè, no, Natale già lo so, sì, perché a me mi ha preso uno una volta, non l'ha preso, forse nel rettilineo di Chiaramonti, con una moto grossa e giù la miscela di deci, mi sono dovuto fermare perché mi faceva male, perché mi ha preso al casco, mi faceva male anche la testa senza avermi preso, da lungo poco ha cuttato un casco, ma lì mi viene cutta una brita, capito? E ti ha preso a fronte, io siamo tutti, quindi alluci, no. Ci vuole, casco con la visiera, quelli di protezione proprio integrale, e poi ci vuole il parabrezza nuovo, soprattutto gli scooter, capite? Soprattutto gli scooter, di Max avevo sempre il casco quasi integrale, proprio con la visiera che scendeva bene sino alla sotto il mento, ben chiuso. Il giubbotto sempre ben sollevato, perché se ti entra, vedi. Bene Meda, Valerio non c'è, attento Valerio, al gay, non c'è quello, è andato a vedere le barche, bella giornata oggi. E che sia un calabrone, quelli che pungono, magari ti entra nel casco e comincia a pungere, mamma mia. Una volta sulla Budi Budi andando al mare, io ovviamente nella moto grande, cioè la Honda 400, stavo in magliettina, non è che mi mettevo il giubbotto, il chiodo, il caldo, magliettina, e mi era entrata una piccola ape, piccolina, no una vespa, una piccola vespina, nella manica della maglietta. arrivato prima dell'incrocio, prima proprio della litoranea, sento queste pugnalate alla schiena, io, cazzo! Ho fatto in tempo a mettermi sul bordo strada, inchiodato, ho messo il cavalletto, me ne sono stracciato la maglietta e ho visto che c'era una piccola vespina dentro, meno male non era grande, se lo sarebbe, il dolore sarebbe stato ancora più grande, capito? Piccolina, una vespa piccolina entrata nella maglietta là con la velocità, cazzo, due punture mi ha fatto. Mi ha fatto il buboncino rosso, no, cazzo, ogni dolore. E meno male non era grande, se no mi fa ancora più male perché c'ha più veleno. E la stessa cosa mi è successa a Valle d'Oria. Sono andato a Valle d'Oria tanti ma tanti anni fa, nel 94-95, una cosa del genere. E mi è entrata una vespa piccola, sempre piccola, nella maglietta, ma appunto della schiena due volte, mi ha fatto il vulcanetto, mi lo sai Claudio, il vulcanetto rosso. Meno male che non sono allergico. Cazzo, mia voce, a voci, cazzo! E allora prova andare alla Ginara, vai. Vai alla Ginara. Io lo lavoravo alla Ginara, era pazzesco. Non c'era Cristo, non c'era Cristo. Ti mettono appresso, perché lì è tutto, capito, parco, quindi non disinfettano, non buttano medicine, niente. Qua è linea di massima, anche in città fanno la disinfestazione per le zecche, per le cose, quindi insomma qualcosa in meno c'è sempre. Là è invaso dalle vespe e dalle api. Invaso, non puoi fermarti a mangiarti un panino che ti saltano sopra e ti rapi tutto, proprio ti aggrediscono, l'estate micidiare la Ginara per le vespe e per le api. Minchia, ci devi andare con quella, come si chiama, quel kit da apicoltore, con quel casco fatto in rete. Eia. A proposito di caschi, in Oga abbiamo fatto la collezione di caschi, perché prima abbiamo preso il casco nero con la fodera marroncino beige, molto molto bello. Poi è arrivato uguale il casco, però bianco, con la fodera grigia. Abbiamo detto, beh, il nero lo teniamo per l'inverno, il bianco per l'estate, quindi io e mamma casco nero, io e mamma casco bianco, uguale. Poi ho preso un casco da MD, un casco proprio bastardissimo, costava 20 euro. L'omologazione ce l'ha però è plastica non verniciata, capito? Plastica nera volgare, ha la viserina, sai, staccabile, forse si può mettere anche quella visiera in plastica, è presente, la celata che puoi alzare, e quella è interessante. E poi, per finire, mi ero ordinato da fuori, sempre della Crivit, roba di Lidl, un casco integrale color silver, molto molto bello. E l'integrale ti protegge in caso di cadute, di incidenti, ti protegge anche il viso, capito, il muso, il grugno, mentre quello jet, se cadi di faccia, te la sfracelli, capito? E l'integrale lo puoi usare magari in inverno, in estate non lo sopporti. No, ma non sono... non vanno bene così. No, io quello, anche quello scooter uso, quello con visiera, semi-integrale, capito? Ti protegge di più, da un sacco anche dal freddo, dal vento, insomma, capito? E vabbè. Dove è Natalino? Vita, sta poco. Oh, è entrato Marco Giulio, prima entra anche stasera, visto che non ci sono partite, non c'è niente. Se ne è accorto, Giulio che c'ha la sua esperienza, è certo che sì che se ne accorge. No, io siamo stati l'altro giorno su WhatsApp, due chiacchiere, è entrato l'altro giorno stesso qua, e poi niente, no, mi aveva detto che era un po' impegnato. No, io stamattina non c'ero, sono sei entrato, tanto non vado da nessuna parte. Però stamattina non c'ero, ero a Trabacos, non lavoro. rosso. Rosaccio, rosaccio, e purtroppo è così. Io qua sono 25 anni, se no ero sempre giù a produttore, se anch'io ero sempre traisci, capito? Pure è capitato quel concorso, l'avevo fatto, via, mi ero agitato andato in pensione. Però quando poi stavo fermo, ti ricordi, avevo quella mia ditta, e quindi si viaggiava, non sono mai rimasto a casa, però purtroppo i tempi erano quelli. O volete subito, se no adesso con l'età che abbiamo è difficile entrare, solo così come stai facendo tu puoi farlo. Ehi, è perché ero già attivo. Ripeto, roboccato liquidi alla macchina, anche se l'olio era già a posto, ne ho messo un pizzico liquido radiatore, liquido lavavetri e così da. Per resto a posto la macchina. La batteria non mi convince assai invece della macchina. L'ho scritto a Pennarello, l'abbiamo comprata a febbraio 2015, no? Ma ogni tanto sembra che sia così così, dai. Quando la spegni la batteria, no? E lasci il baracchino acceso, se ne scende a 11 volt quasi, 11 e mezzo, non lo so se sta un po' perdendo colpi. La macchina la usiamo tutti i giorni, quindi viene ricaricata, ma non durano nulla mica queste batterie odierne, moderne, non durano proprio niente. 2-3 anni le devi cambiare, capito? Poi ogni tanto, se necessario, dubbi, controllo il regolatore, l'alternatore mi controllo che dia i 13 volte e mezzo, giù di lì, e sembra che li dia. No, io la 147 l'ho cambiata l'anno scorso, l'ho messa nuova. La 600 l'ho messa l'altro giorno, l'ho messa nuova lo stesso. Che si caricava, l'avevo già caricata 2 volte, non teneva più, allora sono andato lì a Autorisparmio di Napoli, l'ho comprata molto, quello è buono però, non parla, anzi a 2 anni, l'ho comprata nuova, mi riesce a posto, e prendi Natali che preparo il mangime a Filippo, sono già le 6:20. Già sono, ci penso, ho la bomba a pedale a doppio pistone per gonfiare un po' le gomme, il cambio batteria, una bottiglia d'olio, una bottiglia di liquido radiatore e certe volte metto anche il liquido lavavetri, capito? Più tanti accessori, c'ho il kit di riparazione gomma, se si buca, no? Tu togli il chiodo, la vite o il pezzettino di vetro, no? Poi metti questi bastoncini gommosi, no? Li bagni con il collante per le gomme, fai questo ago, no? Infili questo bastoncino nell'ago, lo infili nella gomma fino a metà, fino a far entrare i bastoncini per metà, poi giri questo ago, lo estrai e il bastoncino, che è gommosetto, no? Più col collante, fa da mastice e tappa il foro, capito? È una cosa particolare. E poi con la pompa lo gonfio la gomma, capito? Usa una cosa che sciolga il catarro, tipo sciroppo, qualcosa per fluidificare il catarro, capito? Così lo spelli prima. Sei un po' tutti, anche Giulio pare aveva catarro, quando è entrato, ci vuole un fluidificante. Che il corpo lo tolleri, che sia insomma compatibile, che non sia allergico. Seglia, Natalonzio. No, ti avevo chiesto una volta, tu all'anagrafe sei natalino o natale? Natale. Ah, ecco, quindi natalino è un diminutivo, come dire Marcolino. Una volta mi chiamavano sempre Marcolino al baracchino, a poi mi chiamano il Rattapignara, che bella roba. Da Marcolino alla Rattapignara c'è un gran cambiamento. Coletto mi chiamava, il Marcolino Condo. Breve, c'è Stefano che mi chiama Natalino, ma mi chiama Marcolino Conno oppure Marcolino Condo, capito Natalino? Oh, a Baracchino non si può dire cognome. Vediamo che abbia si può dire, non è che, però sai, è meglio non dirlo perché ci sono troppe persone cattive all'ascolto, che ne so, non si sa mai, non, di norma regola non si dice, dai, si dice nome oppure nominativo, per esempio Natalino è Alfa 1 di nominativo, è bello Alfa 1, Condor è brutto, non mi piace, eppure siccome c'era quello libero, ma avevo preso quello. Per esempio, vedi, Claudio Sparviero, Sparviero è un bel nominativo, sempre meglio di Condor. Sì, sempre Pigioni, però sai, Sparviero è più bello, Condor mangia le carogne, mi. Eccomi. Stavamo discutendo sui nominativi. No, Condor è brutto, è meglio Rattapignara, così almeno è originale, capito? Questo Sparviere è un bel nominativo invece, dà l'idea di un volatile imponente, capito? Sparviero, no, come dire Aquila. Condor. Io Sparviero ce l'ho dal 1900. Sì, da quando sono entrato, perché prima mi chiamavano col nome, quando ero, poi forse dall'80, 82, sempre Claudio Sparviero, il Condor è un attivo così, però già va bene. Anche Alfa 1 è buono come nominativo, Natalino Alfa 1. Buono, sì. Guarda che ti sto mandando una foto dei miei caschi, tutte e due, quello bianco e quello nero, i caschi aperti, Ah, bello, bello, come il mio, così si mette integrare con la visiera, il mio è uguale a quello nero, preciso identico, non c'è le strisce come c'hai tu, tutto nero così, bello. Bellissimi questi caschi, Marco. Caschi che sono belli. Ma lo sai chi li vende? Li vende Lidl, marcati Crivit, mi pare. E ti danno qualche pezzo di ricambio anche, ti danno tipo la visiera di ricambio, una cosa del genere. Sono omologati, ho controllato la targhetta. Sono omologati. Guarda, il nero qualcosa nocciola mi piace da morire. Con l'interno marroncino, no, mi piace da morire. C'hanno la bandierina italiana davanti, come vedi. Poi c'hanno queste. Hai presente quei quadratini simil carbonio? Sì. No, i miei li ho presi da Oma a Piazza dei Segni. Sono tutti e due della Givi. No, ma quelli sono belli. Anche il mio è così, con la visiera lunga e sono semi integrali, capito? Tutte e due. Eia. E poi ho quello integrale color grigio metallo, integrale, non modulare, integrale, capito? Più resistente del modulare. Il modulare si può spaccare la mentoniera e volare via, però questi vanno più che bene. Tanto mi per città. Però caspita, sono, caspita, se tagli alla strada dalla macchina, ti sbatti di faccia, ti fai male lo stesso con questi, Certo che sì. E Marco, se cagi in moto ti fai male, o se c'hai l'integrale, se c'hai il semi-integrale, è tutto. Cerca di fare la moto, perdono. Io tutti quelli che ho sentito che sono strampati in moto, hanno avuto incidenti in moto, che purtroppo ci sono rimasti, il casco ce l'avevano attaccato. Perché a volte non prendi troppo la testa, lo prendi al bacino. Una costola ti buca i polmoni e c'è un dito, capito? No, un colpo secco alla spina dorsale, dipende come cade. Non c'entra a fare. A volte ti si spetta addirittura come dice Lino Banfi, lo suo capocollo, quindi capito, ci rimane lo stesso, ma ha detto che devi prendere per forza colpo alla testa, così. Si chiama Pina, quello che avevamo sulla Boggia, e lì si è aperta, si è sbattuto il guardarile, nella cigatura anche, ed è morto di sanguato, cioè si è visto morire così, tira la giura e si è visto morire così, capito? Quindi, la moto non perdona, bisogna avere di lei molta attenzione, molta calma, molta tranquillità, passeggiare con la moto, passeggiare. Vabbè, anche correre, però dove lo permette, insomma, quattro corsie, zona libera, occhio nelle curve, insomma, occhi aperti, dai. Ah, mi la stazione Natalino, mi, e già ne ha di roba Natalino. Quello che mi è piaciuto a casa di Natalino, però a parte la radio, era la cassetta del pronto soccorso, bella ordinata con tutto quello che serve. Io me la vorrei fare piccola per la macchina, una mini borsetta di pronto soccorso. E, per esempio, ce n'era una bella da Auchan, della Mappa, borsettina morbida rossa. So che dentro c'erano troppe belle, belle. Io avrei voluto togliere una parte di penne e mettere una piccola boccetta di disinfettante, una di mercuro cromo oppure acqua ossigenata, capito? Così avrei voluto fare, cioè completarmela per conto mio. Dicevamo, mi Claudio, che io in macchina ho sempre i cavi per la batteria, il kit di riparazione per la foratura delle gomme, poi tengo sempre un litro d'olio, una bottiglia di liquido radiatore, la pompa a doppio pistone per gonfiare le gomme, insomma c'ho sempre cose un po' per prevedere. Invece il nostro conoscente comune, no? Oltre che non ne portava nella macchina, era sempre senza olio, senza benzina, senza liquido vetri. Era una volta me l'ho incazzato, gliel'ho detto davanti alla ragazza, ho detto mettiti a posto, però sei sempre senza niente, senza liquido motore, liquido freni, liquido coso, cazzo, date una regolata. Lo sai, era sempre in condizioni, cazzo, di coso, in condizioni precarie. È sempre stato così anche con le moto, c'aveva la spia olio accesa, spia benzina accesa, sempre così è stato, capito? Non era previdente il caro pizzaiolo. Ha considerato non è comprare che ne ho una bottiglia nuova grande, se si vuole fare la cassa, come quello voglio, ma come quella che ho io le cassette, tanto il supporto da attaccare la macchina, la cassa è fatta e si blocca. Veglia, no, aspetta, chi è che ha parlato? Elio, sei tu, avanti. Anche quelli volendo, anche quelli. Vai Claudio Perelio, capito Claudio? Era sempre in condizioni precarie, era sempre senza olio, senza benzina, senza liquido cassa radiatore, senza liquido nello spruzzatore, era sempre in condizioni precarie. Io sono il contrario di lui, ho sempre tutto pronto dietro il cofano. Ciao Elio, buonasera, ben ascoltato. C'era qualcuno che ha parlato sotto Natalino, non so se Eugenio, rientrando qualcuno. fatto, me l'ha fatta senza olio, con mille problemi, non si dice, e tu l'hai fuggita così. Io devo controllare nella moto, la moto non è come la macchina, ce ne sta molto poco, quindi una volta che si consuma devi rimettere, devo stare sempre molto attento anche alla moto, capite? Vediamo chi è che vuole entrare, avanti. C'è Elio, è entrato Elio di prima. No, Elio 930, poi ti ha parlato sotto Natalino, chi era? Io ho sentito Elio, chi vuole entrare, avanti. C'era uno che ha parlato sotto Natalino, sotto, l'ho sentito sotto, capite? E quindi volevo capire se era un genio, magari stava rientrando, non lo so. Vabbè, chi vuole entrare già siamo qua, la porta è aperta a tutti, quasi a tutti, dai. Ah, così è, sai cos'è, siccome lui lo vuttini, sia con le macchine che con le moto lo vuttini, allora lui fotte gli altri per rifarsi, capito com'è la sua... Cazzo, è troppo... Ma scusa, la spia dell'olio la moto non ce l'ha, cosa vuol dire senza olio? La devi vedere se manca olio, no? Cazzo diavolo. Ma vai, ok, già lo so io com'è, ma mica gli fa la giubilata in braccio, io cosa... Marco, lascia perdere, già lo so, è molto disattento, manco una minima parte del padre, il padre è molto attento, molto ordinato, molto qui, molto là, capito? Lo sto dicendo perché lo so, ti ho detto ma quasi sicuramente siete quello, no ti dico che non è così, vabbè, è fusa, infatti sta usando quel 2008 del padre che mi sta succhiando il cervello per andare a lavorare, capito? Ho detto ma cosa ne fai la macchina, cosa ne vedi, cosa ne fai, tanto tuo padre non la usa più, tu cosa ne fai? Vendila e prendete una macchina piccola che vi consenta di averne una, grazie a Dio, cosa ne fai di chi c'ho camion? Ma è la macchina sua di proprietà, anche quella è andata in fallimento, così è? Venduta sarà. Ma perché aveva problemi? Mi pare di aver capito così, aveva problemi anche quella. Cioè lui, ti spiego, lui per farsi il togo, gli faceva le battute. Vi hanno dato una culata con questa Agila, no? Invece l'Agila, grazie a Dio, problemi, se ne è andata solo una volta. E si è rotta la pompa dell'acqua, punto, l'abbiamo cambiata, ma è rimasta sempre. Lui ha sempre avuto macchine con mille problemi. Cioè, lui le compra a 1500 euro, no? Le compra a 1700 euro e poi sono pieni di problemi. È chiaro, no? Che se tu compri un pluriusato ha problemi. E però per farsi il togo, dicevamo, ogni culato abbiamo dato con quella Agila, poveraccio, le culate le prende lui. Ma scusa, hai visto quella 600 che c'ho io? A caso zero, c'è un motore nuovo, quella di una ragazza, non c'è manco 100.000 chilometri. È a posto meccanicamente, di motore, di tutto, l'ho fatta per gli andare e basta. Quindi se la prendi da un privato, da qualcuno che conosci, stai pur certo che non ti frega, perché le macchine, se sono usate bene, durano un'eternità. Se invece devi andare un mutinaggio a comprarle, allora se vai a Mondetta io trovo Mondetta, perciò, capito? Vabbè, avanti Natalina. Me lo ricordo la tua secondo me era nuova, era quasi aziendale quando l'avevi comprata, me lo ricordo, perciò lo dico, se la macchina, guarda tu per esempio, mettiamo il caso, no? Ti faccio un esempio, con Marco, Gianni si vende la macchina, ok, e la mette in vendita a 1000 euro, a 1500 euro, ok, lei già ha una macchina eccezionale, perché? Perché è trattata bene, sempre tagliandata, sempre seguita, a posto la macchina, capite? Quindi uno già di chi era, lì già, ma mi giubilo perché lo conosco e l'ho sempre usata bene, la macchina va bene, se poi tu vai da Gojo, da voi a comprare i macchini per risparmiare, e allora il problema è quello, tutto qui, capito? Se si conosce la persona, la macchina è da prendere al volo, perché conoscendo la persona sai che l'ha operata bene, che l'ha sempre seguita, perché lui ci lavora con la macchina e quindi nonostante sia adattata alla macchina, però funziona bene, tutto qui. Avanti Elio, buonasera. funzionano bene. UHFU. No, io non ti posso aiutare perché io ho due gemellini che tra l'altro infatti adesso vediamo se me ne nisco almeno quello di U e poi niente, poi c'ho il 790 che l'avevo preso da poco, quello della Kenwood, mi è rimasto ancora il 780, però sono basi, sono grandi, capite? Io veicolari no, non li ho mai, non mi servono, capito? Sono volentieri. Marco Ratapignara, tu c'hai niente? Io ho l'8008, se lo vuole, si usa la parte UHF e funziona lo stesso. E te lo usi in U, cioè te lo usi solo in una banda, no? Io quello c'ho. No, vabbè, ma io non è che li presto così, però lo tocca se. Questo, 8008 no, sempre nella speranza di pigliare la patente. Ma come ti serve, solo FM o con tutti i modi di emissione? Ah, no, per saperlo era. Vediamo se trovi qualcosa, dai. Oh Claudio, dicevo, sì, che quella persona pretendeva di spendere pochissimo e avere macchine perfette. Nemmeno quando la compri nuova è perfetta, poi se sentivo un rumorino, sai cosa vuol dire? Rumori impercettibili che io non sentivo, dicevo, ah, questo rumore mi dà fastidio, forse non le faceva una malattia. Io sono abituato ai rumori della macchina, non ci vado proprio, lui ci badava, cosa c'è avuto? Claudio, solita sua, Claudio, non stare con 1000 frequenze accese, stai su una frequenza, ad ascoltare su una frequenza, io, forza, come dice a me, Natalino, fai ordine, negli astrumi. Ilio. Come la barca? Come? La barca. Non so niente io, non so di cosa stai parlando. Guaio, quella foto che ti ho fatto, che ti ho mandato, sono un bel uomo sopravvissuto. Ehi, adesso la guardo. Oh, Claudio. Nara. Ehi, capito hai? La persona pretende di spendere pochissimo e trovare macchine perfette. Sì, ma già lo so, infatti ti ho fatto l'esempio. Uno va al mondettaio e ce n'è un bel di roba vecchia, però non deve pretendere chissà che cosa. Se invece la cerca, no, chi non se ne vuole disfare, io stavo cercando una macchinetta piccola per andare a lavoro. L'ho trovata, ma l'ho comprata da un concessionario. Ecco, la vuoi così o la vuoi messa a posto di carrozzeria? No, la voglio così, la carrozzeria me la metto a posto io. E me l'ho presa. Mi ha detto, guarda che questa macchina era di una ragazza, non ha camminato più di 90 all'ora, è perfetta, meccanicamente, motore, interni, tutto è perfetta, già l'hai vista, perfetta, capito? No, se mai si cerca, si chiede, sto cercando questo a questo prezzo, ce l'hai? No, ciao, arrivederci. Invece sono stato colpo sicuro perché sono andato da un amico che vende macchine e ogni tanto le capita che ritiri qualche macchina poi da rivendere, insomma, messo a posto di rivendere. È capitata da 600 e non la sono presa. Questa ragazza sarà comprata nuova, si è comprata la banda nuova. Quindi bisogna cercare le cose, se vuoi spendere poco devi cercarla. Se vuoi spendere molto vai a un paio di nuova. Sì, ma lo sai cosa mi ha detto a me? Siccome lui prende sempre queste macchine, Mercedes classe A, fu l'ultima qual era, la Golf, no? queste macchine da spaccone, no? Io le ho detto, perché non ti prendi una macchina che consumi poco, una Panda quattro porte, semi nuova? E lui mi ha detto, ma ti pare che mi prendo una Panda? Capito, il signorino? Ma perché prima della Golf non c'aveva quella Y? Quella Y vecchia, capito? Per lui per andare a lavoro intanto c'è tra la giura, quindi può prendersi anche una bella smart aziendale usata, si fa il finanziamento visto che adesso sta lavorando e se la compra ci sono da me quelle aziendali, capito, non dico l'ultima nata, ma le altre che hanno 2 anni così, la paga meno, però c'è una macchina eccezionale, prende il diesel, io l'ho avuta, io ci viaggiavo a Tiesi tutti i giorni con la smart, quindi la mia era benzina, se la tieni bene ti dura, se poi te ne freghi allora ti lascia piedi, tutto qua, capito? Oh, io, e quella volta la ragazza gli avevo detto roba a lui, te l'ho detto, ho detto ma che cavolo, ho detto sì, sempre senza cose, senza olio, senza acqua nel radiatore, senza acqua al posavetri, senza benzina, mettiti a posto. Solo che la ragazza non è che mi ha dato ragione, rimaneva lì con quella faccia da ebete, l'ex ragazza. Ma guarda che è leggendaria la cosa, mi Claudio, lui dai tempi dell'istituto d'arte che l'abbiamo conosciuto, era sempre in riserva fissa, senza olio nello scooter, senza benzina, c'aveva tutte le spie accese, mi capito? Era conosciuto per quello anche. E vabbè. Poi era sì, lì si era fermata la macchina un paio di volte, sia perché era senza benzina, perché lui, oh, ancora già ce n'è. E una volta sotto la pioggia torrenziale di via Milano mi ero rifiutato di andare ad aiutarlo, ho detto mi dispiace, ma io una polmonite per te non me la prendo, infatti sarei la legata al dito, capito? Sotto la pioggia torrenziale, come voleva, è rimasto senza benzina in via Milano, capito? Io non sono andato, mi dispiace. Abbigliare Malani per lui non assolutamente. Si mette a posto e va bene, purtroppo. Ognuno ha il suo coso, lui è molto disordinato, io ho persino il kit riparagomme, non so se lo conosci, c'ha quei bastoncini mollici e appiccicosi di gomma, no? Si filano con un ago, si mette anche il mastice per gomme, li bagni con questo mastice, infili, rotti questo ago e lo sfili, no? E quello fa, lo cementa, si autovulcanizza, non so se li conosci. E con quelli stanno riparando i gommistini, saranno diversi, però quelli lì stanno usando. Ormai la camera d'aria non c'è più, quindi se ti entra il chiodo, tolgono il chiodo e ti infilano questa cosa lì, capito? Che ti devo dire? Vabbè, ma facciamo un pezzo. C'è da aprire un libro su quello lì, perché è molto disattento, non è affortunato da nulla. Infatti, non so, io anche da poco siamo uniti, chiacchieriamo tantissimo, ma lui è sempre del parere diverso da quello che possa essere il mio. Io sulla macchina sono stato sempre molto attento, molto pulito, eccetera. Lui è proprio manifestista. In 6 mesi ne ha cambiato 4, mi pare. Tutte mi sono rotte, quella fusa, quell'altra mi lasciava a piedi, quella negligenza tua, non negligenza della macchina. Ribadisco che se la macchina è seguita a piedi l'ho detto lasciare. Tanto la benzina va messa, non hai diluito il culo di benzina e andare a travagliare, no. Io il minimo, proprio il minimo che rimetto sono 25-30 euro. Qualche volta faccio il pieno, ma sempre 25, 30, 20, non puoi mettere 5 euro di benzina. Così è un litro. E così è le moto sono sempre col pieno, perché ti possono servire all'improvviso, non hai benzina. Ma non ti manca. Qualche appa, avanti Natali. Io minimo 20 ne metto. Anche il minimo che ci mette, giustamente. Mia figlia fa il pieno ogni mese lei fa il pieno. Le dura tutto il mese perché la usa solo lei per andare al lavoro, perché poi esce col ragazzo, quindi non va fuori con la macchina. Le dura tutto il mese. Mi fa il pieno, dice volevo stare a 10 a 10, faccio il pieno e basta. Io invece no, una macchinetta piccolina, io con 20 euro ci viaggio settimane a Sosso. Ma niente, avevo consumo niente, va bene, è in ordine. E Ciccio, adesso a prova di ferie, luglio sicuramente a luglio, giugno-luglio, non prima, perché c'è un sacco di cose da fare. A Papa Roberto lo faccio cambiare con lo sportellone. E basta, una macchina a posto di aggiustarti via a girarmi dei bibidissi. Ehi, ti ho proposto le macchine, è tu, la tua, ma c'è a posto la verifica. Che miseria sto motore. Ma sei andato a Pedanieta a vedere se è lì il motore? Interessante perché la possibilità di raddoppiare Natalino, ah, ce l'hai ancora l'appunto Natalino? Quella è 1009 GTD, no? Che bella era quella quando è uscita, ma sono fatto l'altro modello, quella era bella, si cammina a bulu, 1009 GTD. Vabbè, si poteva anche fare, sì, ma va a comprare la macchina, io devo comprare C, a fare che? Io ho questo 97, la uso pochissimo, diciamo quasi niente, sempre quella mia, se no esco il moto, tanto già in viaggio andare per fare pochi chilometri, va bene anche la macchina piccola, c'è bisogno di avere trasatlantici. Peccato per la tua idea, non è peccato, nuova. Vabbè, se trovi il motore lì che la piace, se piace il motore, una macchina eccezionale. Vedere. Vai Marco, io c'è un'ape, una doccia. Secondo me si sta facendo un nido dietro la poggipola, spiega il controllo. Seia, bisogna scacciarle, sennò fanno il nido e le vespe. Vabbè? Ah. Ogni tanto non mi lascio il microfono inserito. Credo di averlo sganciato, invece no. Perché sai perché Natalì? Io il vizio, anche per frasi brevi, adesso non l'ho fatto, di agganciare la portante, cioè premo e blocco, capito? Un vizio. E lì il panino, raga, si mangia, vi saluto dopo. Che nido nella bugia stava facendo? Marco è andato a mangiarsi il panino. Ah, panino c'è. Dove mangia panini, oh iaia, yeah, yeah. È un paninaro, no, io non ci metto a mangiare panini, oh iaia, yeah. Lascia vedere panino tipo fast food, ma ti immaginate, eh? E a me nulla, a te c'è, cosa ti do? Non voglio nulla da te, dai, dai. Claudio distratto. Sono distratto da qualcosa. Ma che immagini, ascoltava da un'altra parte e io chiamando. Come ho distratto, siamo qua e stavo mettendo diritti nella voce, se la prende un io. Andando e tornando, nella guida della voce. E io la voce la sollevo per pulirla dentro, pure. E la mandano lì, non mi niente. Allora glielo ho sfruttato di lì, è andata via e mi ho tolto il quel pochettino che stava iniziando a farsi, no? Stamattina ho fatto un po' d'ordine io. Mi ho attaccato tutti i fili di dietro. Gli apparecchi davanti non ne ho lasciato nell'alimentatore, e invece ho messo quell'altro sopra, ho messo un prodotto, voilà. Così vuoi da lì, dobbiamo fare così, se no un casino, no, io sto pure dopo questa cosa. Siamo in abito, apro la voglia per me ci puoi dire per faccia, perché è finito al caldo e loro adesso stanno iniziando, mi capite? Abbia tutto però, per andare queste cose, dedicati, non mi toccate che mi cagate, capito? Quando ritiro io li compro perché sono di tutti quelli dal gatto da cui mi ricane, li compro tutti e due. E glielo faccio sia uno che l'altra, anche se l'altra la mette la gatta, ma lì mi si deve dire tutti, e non la dico. Io sono tutti e due. E certo che sì, certo che sì. Va bene, va bene. Beh, Dio, ti sei fatta bene. Non è che tu mi piace a chiappa. No, io ce l'ho, però non uso mai. Non uso mai. Thank you. capito. E com'era bello, perché vabbè, 54 tempi un po' poco potente, diciamo, dai, rispetto a due tempi. Però dura di più il motore, capito, già da lì. Camminava a muro, la pari era 50, no? Camminava a muro, il motore da muro era normale, era veramente bello, con la figlia, con il nostro carabello, era un motore. Cosa al 2012, un paulotto, e me lo comincia a fare un po' di comodina. Mi guarda che te l'ho mandato la mia, amico. Anche a me, anche a me. Perché quella grande non l'hai mai vista sotto il portone? Ehi, forse me l'hai indicata l'altra volta, ma non me la ricordo, dai. Adesso te la rimando. Che rottura di scatole che si. Dove si? Marco Combo, ecco. Avanti. Adesso te l'ho rimandata. Eia, e poi mi dici la piccola, cosa avete di cinquantino? Lo scarabeo? No, il Liberty c'ho io. Oh, Liberty 50? Io 125. Sì, ma ne ho un'altra in vendita da Omar anche. Quel l'SH300 della Honda. L'ho messa in vendita quella lì. L'ho messa in vendita. Non faccio niente, mi tengo quello, lo scooterino per fare commissione e quella grande per uscire quando devo uscire. Ehi, ehi, ha un cupolino, vedo. E se ti abbassi, il cupolino un po' lo para il vento, sì, se ti abbassi, no, tipo moto da corsa. No, quello lì è il cupolino piccolino, piccolino, ma nella foto si vede che è un pochino più grande, piccolino per la strumentazione. Per riparare la strumentazione della moto, capito? Dice conta giri, conta chilometri, c'è tutto il computerino. No, esatto. Quella è la strada proprio. No, adesso devo toglierlo, l'avevo messo per consentirmi per la roba invernale, capito? Per il cambio, mi serve qualcosa. Se ne lo tolgo proprio. Non si comunica il tempo quello, ne lo tolgo, non mi serve più niente. Tanto la sosso non andrò a meccanica. Portavo anche il cambio a volte, capito? Poi facevo i piedi, eccetera, adesso non so se no, quindi vado e torno libero, libero, solo il casco. E che comodo comunque, perché ci metti il casco dentro, se no toccarci la sua pesolla manubrio. E dove stai tornando tu? Buonasera. Metto lui. Come va? Non potevi metterti d'accordo con Gianni, che uscivi a farti un giro, ma non che Gianni non sia con la famiglia. No, invece la mamma l'ha bruciato già, l'ha bruciato in poltrona. Ah, così è già. E allora rimani a piedi. Ciao, ciao, buonasera, vai Marco. Leia, ciao Gianni. Tanto te, qua nessuno, non è voluto andare la signora e sono rimasto a casa, perché da solo come uno scemo non ci vado. Potevo anche andare e fregarmene, ma sai, bene sentito. Dite già, ah, va bene, allora salutiamo, allora c'è compagnia, molto bene. Avanti Natali. E io non lo so, salutiamo, e beh? Claudio Natalino, allora il fulore che fa della del prosciutto avete. Claudio è molto distratto questi giorni, molto distratto, va e viene, va e viene, va e viene, lo chiami e non risponde, lo richiami e non risponde. E lui cosa lo dice? Io ho chiesto anche cosa era Gianni, perché non lo sentivo, sarà lontano poi. Sono qua, sono qua. Dove sei già? Ma su dai, nella zona vorrei lontano. Ma io non lo senti per niente Natalia. Non ti sente neanche Gianni Natalia. E vabbè, quando si avvicina già lo senti. Figurati, si è ammollato il radiale, che quel radiale non mi si è regolato, ora si pure che abbia mollato anche il PL. No, già, ci dobbiamo organizzare prima, durante la settimana. Io stamattina stavo lavorando, sono uscito alle 2. Dopo pranzo io, quando lavoro, sono commosso, capito? Sono morto. Dobbiamo trovare un sabato, una domenica, che siamo a riposo, ci mettiamo dalla mattina, si scende, si fa, e allora il pranzo deve essere finita. Già, io te lo sto dicendo. Passare a modificare a fare, già lì è debole. Comunque ti ripeto, io i radiali ce li ho. Se si possono fare, però sono da bucare, mettere il bullone passante, è sempre un lavoro secondo me che non è originale, tu che sei molto preciso. Tipo rimani busciacca, te lavoro, devi la mantova 5, nuova, se c'è la mantova 1, parti con la mantova 1, se la trovi, capito? La compri nuova, quella si scende, si tiene di scorta, piantone, centrale, eccetera eccetera, ci smonta, si tiene di scorta e te la poni dopo, la piantiamo e ciccia. E a trovarla la mantova 5? Io se riusciamo a prenderla quella di campagna ce l'ho nuova. Non ho capito già, cosa hai detto? No, come Marco non si trova, ma stai scherzando? L'avevo chiamato a Mantova, ce l'aveva, addirittura aveva anche una Mantova 1, infatti mi si è fatto mandare la Mantova 1. Tutto non dice ma Fusaro alla GBC, no? Chiami direttamente, a vedere se ce li hanno le antenne, continuamente ci sono le antenne. C'è la Mantova 5, la Mantova 1, la Mantova Turbo, c'è ancora in qualcuno a residuo di magazzino la Stella, la Super Stella, però io non l'ho mai presa, nonostante sia un'ottima antenna, perché c'ha il centrale troppo fine. Non aspetta qua, quando ti dà vento ci vuole antenna robusta, se no è un casino, capito? Hai capito, Rata Pignara, capito? Sì. Ah, quindi chiamando la ditta volendo qualcosa si trova. Caspita. Sarebbe bello accaparrarsela davvero una Mantova 5 o la 1. Invece di queste turbo, come si chiama? Mantova Turbo ultima serie, che sono più cagate come sono fatte. Scusate te. No, ragione, per montare la Mantova Turbo sistemiamo quella come Dio comanda e si ripiazza quella, ma buffone. Mantova Turbo li dura 2 mesi, due bracci. Si spettano i radiali, si mettono, quando poi danno lo slancio il radiale balla e si spezza. Se ti dicevano in giro di 6 mesi, io li ho cambiati 2 volte. Mi ero scocciato, alla fine l'ho tolta e ho messo la Mantova 1. No, assolutamente. Non è un'antenna che fa qua una città, dobbiamo i due bracci. Quel piatto lì, quella base con la controbase, si era tutto praticato, ma giro di 6 mesi, ho fatto tutti i bulloncini, messi in acciaio, tutta riempita di grasso, poi lascia avere, l'antenna non serve a niente, non ho fatto proprio la scoperta dell'America, no, la Mantova 1, la Mantova 5 sono i migliori. Niente da fare, io ce l'ho una nuova, già un paio d'anni forse, nuova, messa nuova, tutto nuovo, capo, tricche e ballacche, funzionamento è perfetto, dice che io ho proposto, uno, rapporto a uno, neanche, manco si muove la stazionazione, va bene, Gianni dove sei? Scappa, Santiago 9 sta arrivando. Fai la 131 o la Budibuti? Cavagava, lei come io per fare, per andare a Sorso faccio Sant'Amillo, un traffico la mattina, non puoi rientrare, è più corta, non c'è fare tutto il giro dalla Budibuti, poi da sotto, aglia là, aglia qui, aglia là, troppo aglio c'è. Beh, era da Pignara, ma non si è affogato, ma niente di rubanino. No. Panino stile McDonald's, però non ha il sapore esaltante che ha il McDonald's. Come McDonald's ha un sapore particolare. Però questo almeno era un burger più fresco di macelleria, capito? Burger di giornata, non che c'è mummificato. Non si è mai visto nello spirito. Un panino rotondo tipo McDonald's. hanno l'hamburger dentro che sono sottovuoto. Io l'ho fatto la prova, li ho presi, per carità di Dio. Ma io non credo che c'è hamburger, non voglio avvicinarci la bocca, ma lo capì. Oh, e dove li hai presi? Io lo spingi sono, lì nel coso frigo, capito? Sono a coppia, due panini, a sesso, rotondi, piccoli così come quelli del Mac, però la carne chissà quanto tempo c'è. L'ho messo al forno, no? Riscaldato, tutto, poi va condito, messo, c'è una fetta di fontina, questo hamburger, che Dio ce ne scappi liberi. Ficcato, guarda. Se la fortuna sembra un foglio di giornale, secco, di cassone, no? Il giornale più morbido, di cassone. Capito? Però va condito, no? Sa, la salsina, la cosa, con la fetta di lattuga sopra. Ma poi devo anche, così arete, barba di. E infatti qua l'abbiamo fatto fresco, però vedi, non ha l'aroma, il sapore che ha quello di McDonald's, non so perché. Loro usano una miscela di spezie sicuramente per fargli prendere quel buon sapore. Buono, poi dipende, buono perché chi, a molti non piace. Però se piace che fa dentro una rivista per il mondo. Adesso zero, no, lasciami perdere, buon lavoro, difettiti. Vai Natalì. Sto guardando questa Duna, guarda. Ehi, 260 euro l'antenna, un'antenna, ma prometteli da te, figa. Lascia perdere Natalì. Troppo costosa per l'uso che devi fare tu. Perché è un bel lunga e quindi esce una bella parte dal tetto, ma quella non ha problemi di uscire dal tetto, quella lavora anche a fianco al muro. C'è anche mezz'onda. Guarda, ti ho detto che anche quella che c'è ai radialini, no? Facendola, lasciandola 20-30 centimetri il tanto della zappa, anche 20 centimetri attaccata dal muro, ok? Quando poi è montata, il radiale che tocca il muro non si piazza, si piazzano gli altri due, non succede assolutamente niente. Abbiamo fatto a Daniele una vita, era attaccata allo bugiolo con Franco, la radialetta abbiamo levato i chili. Lasciamo a cavallo, praticamente cosa ci vuole lì? Un tubo più lungo? Quando funge, vediamo il battaglio, può portare delle tappe nuove, capisco perché me mi sarò potuto portare delle tappe nuove più in basso, per allungarla di più un po', capisco. Anche sì, ma ho già capito, si staffa, si mette quella staffa a tassello, si rinforza il palo, si mette un telescopio, da ne ho io di quelli, non ti preoccupare. Certo, il sabato era eccezionale, ero anche a riposo, ma era tutto mandano bandera, devo andare. E oggi ho lavorato, quindi adesso vediamo questa settimana, come siamo messi. Facciamo un sopralluogo, mi vado a prendere a Marco, facciamo un sopralluogo. Vediamo cosa fare, capito? E si finisce questo lavoro. Tu intanto decidi che antenna devi prendere, o come quella di Marco o qualcosa del genere. Fatti conoscere da Marco che conosce quei tipi di antenne. Lui si grave muia, ci prende, ci piazza, è inutile perché una volta che buco metto la staffa e chiudo, e lì è giù di finirmi, non è giù a girarmi le bibilisce, no? Questa è dovremmo ancora andare a Natalino. Ma infatti ti sto dicendo, una volta che è stato rinforzo e chiudo, non aggiunta cantammessa, attacca RBL e ci chiamiamo. Dimmi doppio route, stavo scavrando a Natalino, ti ho detto tutto, Natalino è 9.5, vedi te, e vabbè, ma sei sempre a vista ottica per me, quindi sei 9 più 10. Ti ho sentito sopra Natalino che è 9.5, infatti un gol. 9 più 10 già, ma ci sei calato nuovamente a 9, 9, 5. Sì, Natalino, va bene. C'è stata una bella giornata in settimana di pomeriggio, faccio prendere a Marco, veniamo. Faccio sopra luogo due foto, così mi organizzo e questo lavoro si fa e basta, se no fermo giù Piantelli e senza vannuta, capito? Vai Marco per Gianni. Ehi Gianni, dai, mi ascolti, sono sempre ai minimi termini, dai, vedi un po' se va. Ehi, se mi ascolti, 7,7 oscillante, dai. Cosa volevo dire a Natalino? Natalino, tu non è che puoi mettere mantova, devi mettere roba leggera. Roba leggera, poco impegnativa, che sia facile da tirar su. Io questa antenna magari non durerà 20 anni, 20 anni magari non li durerà, chi lo sa, però e comunque quando si mette bisogna isolarla, non bene, ma benissimo. Devi isolare tutto quello che si può isolare, capito? Gli stili, la congestione tra la bobina di plastica, tra il copribobina di plastica e il pezzo di alluminio dell'antenna, capito? Lo so, ma boh, questo filo appeso alla canna fresca, non lo so, che resistenza ha al vento, se si piega, se si spezza, boh, non lo so Natalino, io ho scelta personale, a me piacciono le antenne in alluminio, mi piace l'alluminio, non mi piace né la vetroresina, né plastica, né nulla. Già 7:30 sono, è ancora bella luce via, che bello. Siamo un'ora, abbiamo guadagnato un'ora di luce. Sì, ma stamattina c'era buio alle 6:30 però. Certo, perché il buio che c'era alle 5:30 adesso risulta alle 6:30, capito? Ho capito. Vabbè, no, non mi sono 7:30, il sugar. Vedo il cane, devo portare. Ancora a giorno, invece mi sono ricordato che praticamente è cambiato l'orario, vabbè, e tu ce l'hai in macchina, io invece ce l'ho qua a mezzo ai piedi, ce l'ho con la testa, piedi sì, cazzo la testa sotto la ciglia, che allora, stai attento non ti trovi i baraccelli nella spiaggia, capito? Non puoi portare il cane a passeggiare nella spiaggia, non puoi né passeggiare e né fare, soprattutto se fai bisogni. Vabbè, ti sto dicendo perché è successo a me, capito? C'è un'ordinanza del sindaco di Sosso, tutto il litorale di Pratamona, quest'anno c'è da ridere, solo nelle spiagge autorizzate per cani, c'è da ridere quest'anno. L'ordinanza va, ma cosa c'è lì che stanno facendo la qui alla Perosa, no? A Tintino, tutte quelle zone lì, peccate. Vigili urbani in borghese, San Vitina di quello che hanno diventato i gurugani, dicono documenti del cane, tutto quello, qui il cane non può stare. E ce lo porti via, e la signora l'anno scorso è incazzata nera, le saline, incazzata nera, c'è il cane, è qui, è fermo, non sta dando fastidio a nessuno, a volte, poi riesce a far reddito. Le ha fatto portare via, non può stare che mi spiace. Ma non sono state autorizzate, ma è perché non la legge che portare in scusa che gli sposi non autorizzate, dove stai tu? Sì, ma infatti ci sarà da ridere perché c'è un'ordinanza del sindaco di Sosso, dico come tanto ancora il provocatore. Ok, però la legge non è come dicono loro, quindi bisogna vedere cosa ne salta fuori quest'anno. La legge dice che adesso le spiagge sono libere per i cani, capito? Adesso stanno cambiando molte cose, Claudio, non è più come ti riteniti. Ma comunque in ogni caso io non ho passeggiato sulla pastiglia, ma hai visto come c'è quell'erbetta mischiata alla sabbia lì all'entrata, diciamo proprio della rotonda lì dove c'è quella spiaggetta con la, c'è sabbia e c'è anche l'erba che è cresciuta. Cazzo, non ci abita una donna a Platamona, c'è una specie di, c'è quella messa là dove aspetti il tram, no, si è tappato quella lì, se l'ha fatta a casetta, ci ha messo il nylon e lei sta lì con tre cani a chiedere a tutti, me lo inviti il caffè, me lo inviti il gelato, sempre dice le guardo un anziano. È mia amica Di Marco, eh. Amica Di Marco, sì, sì, già, lo so, lo so. È successo a Mario, a mio genero, siccome è un ragazzo che ha le mani anche pesanti, non è andata bene a quel baraccello, capite? È andata anche bene, perché l'ha presa a voce e lui si è girato, capite? E quindi è andata bene. E allora lei era senza un pettine, col cane, gli ha detto che non poteva fare col cane. Non lo dite, non si ci va in Italia io il cane, non posso passeggiare col cane, no, ti voglio portare, insomma, ho fatto un sacco di cose. Allora mi dice, ah, pacchetti, è andata bene. E allora, vabbè, vabbè. Ok, dai signori, io mi sgancio un attimo, tanto inizio a spegnere qualche radio, non ci fa niente acceso, mi sgancio un attimo, vado a portare il cane, se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Sì, sgancio, sgancio, mi sto sganciando da qua, dalla sedia, da giro al blu piatto. Questo è il giorno, ho porto, adesso visto che non c'è, l'ho porto qua. E poi risalgo, eh. A dopo signori, ciao, Marco, vai. Sì, oh Gianni, ma quanti siete in macchina? Due. Cioè, ma due più il cane? Sì, ok, saluta chiunque sia, dai. Beato te che hai fatto il giro a Platamona, io purtroppo qua non avevano voglia di girare, capito, a guardarci Barbara D'Urso tutta la sera, ma quando mai? Vabbè. Questa giornata non te la dovevi sprecare perché è una bellissima giornata e siamo stati bene, c'era il sole caldo, insomma bancarelle. Anche se Platamone è un po' morta, ecco, io sono sceso anche a Porto Torres, ho fatto un giro, eccetera. Platamone è un po' morta, durante l'inverno invece di stare così in panciolle, lasciarlo così, adesso aspettare l'estate che arriva la gente e si trova questo diciamo cantiere, è una cosa, guarda, degradante più. Aspetta Gianni, se mi ascolti, e adesso ti ascolto, Natali, sono buchi punti, dai, sono quasi arrivata la veloce, ma ti ascolto in questo momento, ciao. Ciao Gianni, ciao Gianni. Ho dovuto riportare il nome per nessuno di Gerardo. Bisogna che puli puli mani, prima la temperatura e dopo la mia, adesso non lo so se la giusto oppure se la stanno, adesso vediamo, dipende dalla disponibilità. Infatti io adesso non ci avevo in diretta, dopo uno, magari sì, me la vedo quella leggera, leggera, però devo cercare di prendere la manta per la cinque, la campagna, che nuova quella lì, quella lì. Costa un bene a tali, se no io ti consiglio la Game Master per prendere antenne che si sfasciano dopo due giorni, ti consiglio la Game Master come antenne. Ma costa un botto, dice, quelle 200 euro costa, una cosa del genere, costa un bene. Però avrei fatto, voilà. Ma c'è quella di Marco, quella di Marco, va. No, un po' meno. Ti volevo dire, la Game Master costa un bel. Luca fa le le 60 anni te le fa pagare meno. Se proprio vuoi una canna fresca, piglia quella di Luca. Se no scegli un'antenna leggera, però leggera, non te lo mettere roba pesante. Non mi piaccio io canna da pesca, eh. Canna da pesca andi a piccare, scoglio lungo. Ma anche io detto costa dalle 140 alle 160, 170, dipende da cosa compri. Se la trovi a 140 euro considera che la manta va a costa 120, quindi. Meglio la Grimaster per quello che devi fare tu, capito? Se c'è qualche via che sono certo che sì. Va bene, scappo dopo. C'è Eugenio che arriva troppo basso qua, sotto il 5, Claudio non te ne andare. Già l'ho sentito, cambio, cambiati, ma io che stanno alla porta del cane, dimmi. No, non c'è Massimo, c'è il basso, forse Marco non ti sente, stanno alla porta del cane, ci sentiamo dopo, vai Marco. Sì, infatti non lo ascolto. Ho sentito cambio, una cosa del genere. Poi già si avvicinerà in giorno, immagino. Eia. Quindi Natalia, ma tu sei indeciso, ma vorresti mettere quella di campagna qua? Fammi capire. Ma con radiali così è, ma vedi tu, se i radiali non danno fastidio a nulla li puoi mettere, se no mezz'onda, vedi tu, dai, sai, mezz'onda tira meno l'attenzione perché dritta, vabbè, che cazzo, quando vedono 6,5 metri di coso l'attenzione la tira lo stesso, dai. Ehi, falla con lo zoom, però falla con lo zoom in modo che veda bene io dove arriva il palo, tutto quello che vuoi. No, fallo alla luce, fallo in pieno giorno, non adesso. Adesso sta scendendo la piano piano in buio, l'ora mia. Ecco qua. Aspetta, c'è un bel kit di riparazione gomme, mi. È piccolo, è una borsetta e dentro c'è di tutto. Ti danno quelle strisce di gomma vulcanizzante, i due apparecchi a mano, il tubetto di colla, tre bombolette di gas CO2, l'adattatore per le bombolette, la prolunga, cose che non ti danno, il taglierino per tagliare, tutto ti danno. Puoi anche gonfiare la gomma, bello, questo per la moto lo voglio, capito? Non per la macchina, ma per la moto mi serve, è piccola borsetta, è 10 cm per 6 cm. Devi evitare tutto questo, basta avere la bomboletta e eviti tutta questa roba. Dai, ci sentiamo, io sto chiudendo, dai, magari ritorno a casa. Ciao! Ciao già, ma la bomboletta rovina il pneumatico, lo sporca, è peggio della colla quando si attacca, si deve buttare la ruota, il pneumatico, questo proprio fisicamente tappa i buchi e ti permette di gonfiare la gomma. Siamo già per la macchina, e siccome questo è un borsettino piccolo, sta sotto la sella della moto e bello pronto, bello, costa 23 euro più 5 di spedizione, appoggiami, c'è il gatto che sta rubando i croccantini, sembra che non gli diamo da mangiare a questo gatto, ma quando mai? Ci ha capito, Antanino? Quando gli dà da mangiare non mangia, lo annusa così e si danna, e poi va a rubare i croccantini dalla scatola principale. A te le immaginici, le piace rubare a questo gatto, capito? Mangiano piano e quando ne hanno voglia solo. Stavo guardando, sì, questo kit ce l'hanno un bel di persone, un bel lo vendono su eBay e quindi è buono, è buono. Ce l'hanno un bel di persone, c'è a vedere, questo è un altro venditore, no, è lo stesso, ne ha un bel, ne ha 10.000 a casa. Sì, mi piace, ma lo voglio prendere. Bello, bella, ok. Quello con quello che sono loro, loro sono quello signore ad aria, quello adatto. Esatto, quelle bombolette a CO2 da 12 grammi servono per la pistola d'aria compressa che ho a piombini e poi servono anche per un revolver soft tire che spara i palini di plastica. Ce l'ho le bombolette, me ne ho un carascio della Umarex. Sai perché ho preso proprio quelle della Umarex? Perché quelle della Umarex hanno una piccola quantità di olio al silicone che serve a lubrificare quel tipo di armi, che poi non sono armi, quel tipo di roba soft tire, capito? Esatto. A toccare la soft tire, noi vogliamo militari, loro si divertono al campo, ma quando posso venire il futuro, vengono lì. Ehi Nathalie, io c'ho tutto per il soft tire, però sono troppo legato fisicamente, non potrei resistere a una partita, dovrei prima mettermi a posto fisicamente, perché quelli corrono anche, agiscono in fretta, capite? Io sono un paralitico. Anche noi ci muoviamo più, adesso il collo lo faccio a me, questo qua è un disastro da andare in grosso lo spazio. Ho capito il collo che vuole farci che faccio io di grosso. E gli altri, sì, il tiro dinamico è diverso. Ti fanno il combattimento proprio, devono correre, fare le capriole, beccare le, al volo le sagome. Sai dov'è il gruppo di soft air di Sassari principale? A Caniga, nelle campagne di Caniga, non ho capito bene dove, ma è lì. E c'è la ferrovia che passa nel campo, capito? C'è anche la ferrovia e forse anche un corso d'acqua. Quello non lo so. Comunque questi qui venivano ad allenarsi tutti barbati, ma bulli, quando erano veramente come pensa che c'ho tutto, le mie metti che c'ho, il fucile, la pistola, ce l'ho sia elettrica sia a gas e poi c'ho quel revolver a CO2 che però non ruota il tamburo, lo sai, lo devo far ruotare io a mano, sei difettoso. C'ho, come si chiama? Io dovevo andare in quel gruppo, però poi fisicamente, non lo so, sembra che stia peggiorando fisicamente. C'ho anche il, come si chiama? Non il gilet, è tipo gilet da guerra, che ha tutte le tasche, c'è anche lì la fondina per la pistola incorporata. Perché ho visto noi abbassiamo la gente, con quella lavora. Sì, e tu dovevi dirgli, anch'io ammazzo la gente. Va bene per te. devi regolare come piace a te. È che non ce l'ho l'eco qua, se no ti avrei fatto sentire come piace a me, cioè come uso io ti avrei fatto sentire, capito? Ma non ce l'ho qua. Ehi, va bene, va bene. L'anello regola la velocità, quello centrale regola il volume. L'anello mettilo a sinistra, quasi tutto a sinistra, e poi piano piano lo muovi verso destra e senti com'è. Gianni, Claudio, sei rientrato? Elio, ci sei? Io sono rientrato, sei rientrato subito. Inteso è l'eco di Natalino. Ehi, ho sentito la funzione, l'ha regolato bene. Usciva una bomba, l'ha sentito anche Sandro. Cioè, a me piace, veloce la ripetizione, leggerissima. E si sente appena, lui è No, se lo regola bene, l'altro giorno ci vanno bene. Così come va, Claudio, ehi, alla grande, come l'altro giorno, lascialo così. Eugenio, dov'è? Non l'avete più sentito? È rientrato a casa. Ah, arrivato tutto a posto, meglio così, ok. Infatti arrivava intorno al 5 oscillante, dai. Anche meno, dai. Sotto il 5, insomma, oscillava, dai. Oia, mamma mia, sta salendo tutto quello che ho mangiato. Devo prendere un bicchierino di digestivo, dai. E chi tu grosso qua, così ce lo vea. Prendere la tenaglia, la tenaglia. No, io qua sento un movimento bimbi. E quando c'è quel macchinario in funzione, e mia figlia è a cena, sono dolori. Com'è? Movimento? Il bimbi, bimbi. Non la conosci quella macchina che fa tutto? Mia figlia c'ha tutto, a casa c'ha tutto. Tutto. Fugatore automatico, come si chiama, il tutto. E poi assolutamente ha comprato il bimbi, che è un macchinario che fa tutto. E sto sentendo il rumore, quando in funzione quello, non prendo la vaga, che cosa di buono c'è stanotte? Ah, il robot da cucina, chiamalo col suo nome. Bimbi si chiama, bimbi. Certo, il suo nome c'è scritto bimbi, non c'è scritto robot da cucina. I bimbi, è conosciuto come il bimbi, e quello non c'è scritto, quello fa di tutto e di più. Figura di l'aria, 110 l'ore all'alberghiero. No, fa tutto Marco, la centrifuga, c'è anche la centrifuga, tutto, tutto, tutto, sai, vuol dire tutto, tutti i macchinari che ci sono e ce li ha, ce li ha. C'è un tavolo solo per i macchinari, su che andiamo, no? Natalia ha fatto una butta con i bimbi, è solo l'impatto della pizza Marco, 5 minuti, tu conti, 5 minuti e pronto l'impatto della pizza, 5 minuti. Lei sa cucinare bene, no? Ok, ho il suo lavoro, perché lavora nella ristorazione, è una ristorazione di 14 anni che lavora nella ristorazione, è ancora a scuola. Ha vinto anche lo stage al terzo anno, figurati, capito? E poi al quinto, subito, come si è diplomata, poi è entrata subito al mattino. Beh, a tocchi la sposa. A tocchi la sposa, non però l'obiettino. La gente dice che mi seguo io e già lasciare finire i loro progetti. Permetti mi sposa, va. Ti sposo io, Natalì. Ah, caro, non lo fa mai. Allora, come mai ho detto che quando la cena l'accompagnavo io al Miglia di Olbia? Sai che il Miglia di Olbia è una multinazionale spagnola, una catena di alberghi. A Serizzano si tira a guidare questa Madrid. Come? Vai, porta tua sorella a Madrid, vai, che mia figlia già lavora qua. Eh beh, un anno a quell'età, mamma mia. Ah, appena ne ho una e te la mando a Madrid a lavorare, tutto lavoro che c'è qua. Ma io lo trovi subito il lavoro, ma lui infatti me l'aveva detto a me, Poi si è iscritto anche all'università, ma adesso non sta dando più esame, ma è sempre iscritto. Ehi, ehi, insomma, cucina bene, quindi è già una cosa molto positiva a me. Ok, che ore sono? Le 8, si so già? Quella è la cosa semplice. A me da ieri notte ha preparato questo timballo. Ci vuoi arrivi due di lui, immaginando due piatti. No, poi questo macchinario fa tutto, Marco, lì non compra niente, capito? Besciamella la fa in casa, fa tutto, tutto in casa. Troppo comodo, devi pigliare la farina, l'acqua, pigliare il mattarello, stenderla per fare le lasagne. Già lo so che eri pasticciaio. Allora, e poi c'era, quando ho saltato lo scritto all'estico, non l'ho fatto quello lì, è tutto qua. Uso loro, una brigura, qua. Già le ho viste le foto, infatti io stavo schiattando. Che cosa? Le frittelle. Aspetta che sto abbassando le VHF, che c'è? Volta, se no non capisco un accidente. Cosa stavo dicendo? Le frittelle, ma tu vedrai, in 5 minuti fa l'impatto delle frittelle. Quel macchinario lì, 5 minuti, impatta tutto. Tutto, fa qualsiasi cosa, c'ha tutto, con tutto digitale, con display a colori, quindi tu imposti, vuoi quella torta, dici, metti gli ingredienti che lui ti chiede e ti fa quella torta. Qualsiasi cosa ti fa, capito? Non vado alla cucina, io non avendo i macchinari, non li faccio a mano qua, a salvo, faccio due sempre a caos, chiedo un vai, pasticciaio! Beh, Natale, tu c'hai da ragazzino quel mestiere lì, quindi l'impatto lo conosci, lo sai fare. Magari è lo stesso, lo sa fare, ma buono. Però lo fa col macchinario, capito? A mano no. Ma il suo macchinario costa 1.800 euro, meno costa 2 citi, no? Ma è professionale? Allora? Marco, che mia figlia doveva preparare la come si chiama? che piace a te. La crema bruciata, eh? Sì, ma vi ho detto crema bruciata. Ah, io che avevo detto, mamma mia quanto è buona. Ui, fate con quella fare lì. Sant'Antonio mio, Marco. Sant'Antonio mio. Due minuti. Meno, ci mette meno di quella che compri già pronta, che devi, capito? Girare, no, qui ci avete del tetto. 2 minuti. La togli, la metti nel suo contenitore, la metti in frigo, cosa rete? Allora non ti conviene che si sposi tuo figlio, ma che rimanga lì che fa buona roba buona. Perché me la sto andando con lei io. Allora che vecchiaia. Bene, bene. Sì, Natalì, molte sono buone, quasi tutte le paste. Ah, lo sai quale non ho più visto, Natalì? Te lo ricordi il cardinale, quello col coso rosso al centro? Quello non lo vedo più in giro. Per esempio, anche quando vado alla piazzetta, che c'è la pasticceria, no? Il cardinale mi ha detto che non lo fanno più loro. Non so perché, forse non è molto richiesta come pasta. E comunque dovendo scegliere diplomatici a vita, belli liquorosi, mi. L'aria, lo sai, lo fa lo stesso, quello del macchinario lì lo fa lo stesso con l'impatto per fare la pasta sfuglia. Ma col culo e pastami. Con che cosa impatti, Natalì? Col culo. Anche quello è un sistema per impattare. Natalì, non mi sei. Cos'era quella barzelletta o quel film come il Thomas Millian che diceva che c'era una che faceva le gnocchi col culo? Poverino, è morto, è morto. È morto. Lui anche quello, come cavolo si chiamava, Venticello. Ah, Venticello pure è morto. Ehi, già una diga è morto Venticello. Lui già pigliava. Viva Thomas Millian, grande era. Purtroppo, e poi è morto quello che faceva il mago su Slimi, quelle cagate lì, dopo Gigio, ma. Ah, lì c'erano baci piccinetti, a me gli attori più bravi erano Thomas Millian e Bud Spencer, capito? Invece Terence Hill si è dato a fare un breeding, Don Matteo, più che Don Matteo non fa. Ci stanno toccando le palle lì. E dice adesso tocca a me che sono anziano. Io penso il prossimo dei miti è Paolo Villaggio, il suo altro invecchiato. E gli Antonino Banfi mi si stanno toccando sotto. O due sono rimasti, non so chi tocca prima. Però Paolo Villaggio l'altra volta era la Barbara Russo, io non la guardo mai sta zoccola perché mi sta più che antipatica. Però stavo guardando proprio perché stavo intervistando Paolo Villaggio, ma con un vecchiato tantissimo il suo. Nino Banfi sembra vecchio ma non è ancora in forma. Paolo Villaggio si vede che sta cedendo. È morito. Poi penso che sia più grande Paolo Villaggio Nino Banfi. Può darsi. Purtroppo tutti i miti della gioventù piano piano spariscono. Porca miseria. Alvaro Vitali, quando è che gli parte la pompa? Eh? Hai visto come l'hanno inquadrato fuori dallo studio? Era tutto. Sembrava il collo di una tartaruga, non so se hai visto. Mia genio. Ehi, anche Alvaro Vitali è diventato vecchietto. Avanti, oggi dove sei? Sì, sotto casa, stai modulando? Ah, adesso c'è una nuova postazione. Santiago 7, Radio 5. Lo senti Marco da sotto casa sua? Sì, fammi vedere il segnale, Eugenio. Santiago 7 modulati. Santiago 6, oltre 6, portante muta. Com'è il segnale di fumo? sì, vabbè, ma non ho capito chi è. Sabu. Sabu, chi è? Presentati. Prepara pompette, Zegra. Noi, bombo, se non ti presento già io, se non so con chi sto parlando, poi, capito? E allora, segnali di fumo, pompette, sempre uguale, Dio Claudio, sempre con questo mitico pararmato qua e via, su chi andiamo, va bene a tu? Tutto bene, buonasera a tutti, mi stanno scherzando, stavo... scusate, no, ma stiamo per ridere adesso. No, no, figurati, solo che di tanto non entra essere uno, quindi uscì, però io sono di quelli che devo sapere sempre con chi parlo. Piacere averti ascoltato, babbo, come sta? Già fa bene, mi sto muovendo qua a radio, sto durando l'onte da così. Bombo Loite. Buona, ottima. E via, buona, buona. Ascolta, il trimmer della modulazione l'hai già alzato? Ok, va bene. Comunque è buona la radio, è bella chiara. Ti ricordo il cantone che apre la radio, Eugenio, a toccare il trimmer. E non se ne taglia la pizzona prima. Uscirebbe più forte. Aspetta che guardo il filmato di Sassari. Eia, ciao Eugenio. Ok. No, quello è Natalino. Ciao Eugenio, sì, si sente il bip, è uguale a questo. Oh, me ne sono pentito, mi dicono, avete la data, quella radio, lo sai. Sì, perché alla fine, boh, era meglio fare un favore e venderla a una persona a cui serviva. Boh, faccio per me. Eia, vabbè, dai. Cioè, gli ho detto anche a Claudio, mi avrei voluto accontentarti. Infatti me ne sono pentito. Beh, io sono così, sono strano. Oia, avanti Bombolo, da parte di Marco, buonasera. Bombolo. Già sparito, eh. Eia Eugenio, eia. E guarda, i poli dovrebbero essere già gli stessi. Quindi se un giorno ci mettiamo d'accordo, ci troviamo in un punto X, lo colleghiamo e lo proviamo. Eia, eia. Ok, sì, infatti provare prima questo che sai che è già manetta, è già pronto, capito? Spero che i poli siano gli stessi, ma dovrebbero essere gli stessi, ok? Beh, non ho dato. Ah, il doppio room. Dove? Jack Gulp. Spruz. Sì, allora, genio, la situazione com'è? Quindi stai uscendo bene, ci siete tutti bene, tutto a posto con questo camion che ti hai comprato, l'antenna nuova, il baracchino nuovo. Io ti ascolto Santiago 7 e Radio 5, mentre invece dal camper, nella stessa posizione, ti ascolto 5-5, qua sei 7-5. Non c'è, che antenna hai messo? Che antenna hai messo nel furgone? Vabbè, 7-5, Santiago 7. Come l'hai messo? C'è troppo a poco, eh? Buccato la... Poi metti un linearetto ed è un bijou anche con la corsa. Il 747 prendi della Midland, della CTA. Guarda che c'è la Massimiliano, nuovo, che è, mamma mia, sempre pendente di nasci. Però là ha un prezzo buono ed è nuovo. Ecco la traia completa, letto anche l'altro giorno. Appunto c'è questo 747, poi c'è in vendita un BV 131 nuovo, ok, se serve qualcuno per casa, nuovo, chi è che ha detto compro? Non ho capito, avete parlato in quattro, chi è? Massimiliano. No, sono Antonio, a te a radio, anche a Bombo, ti sentiamo, mi sembra che Massimiliano. Ciao, forte, chiaro, fortissimo. Era da un po' che non accendevo. Davvero, sembra Massimiliano. Quella è una bella radio. Cos'è quella, l'8001, tu? 87. 87 modificato, backhaul, una bomba, Era da un po', da un bel po' di tempo fermo. Bella è anche bella forte che attrisciuga. Se ti va vedendo in quattro. A me non mi sembra mancare. Gianni, riprendi. Io ho appena ascoltato, mi sta ascoltando. Tu Gianni, che orario strano, tu è già tardi, tu. A me occhio ce l'ha ancora. Sì, sono già messo ancora per piazzare io. Eia, eia, ma a voi piace più la luce fino a tardi o il buio presto? Indifferente, a me non mi interessa. Io essendo pipistrello preferisco il buio presto. Tu sei un pirata fantasma. Eia, ma l'ha detto anche mamma. Io non mi sbaglio, io leggo il pensiero. Avanti, come arrivo il segnale dalle vostre parti? Nove più pappe, Marco, pigliala in culo. Cosa hai detto tu? Il segnale come sono? 9-10, 9 più 10 con questa. Qua 9 più 15, non so perché. Perché è più vicino a te. Ah, così è? Yes. Ma tu sei più in alto. Non c'entra niente, ma sono più lontano. Ah, vabbè, vabbè. Sì, 9 più 15, più o meno, dai. Ma sempre la serie, lo so, stavo cercando, capa. Sì, però tu stai ricevendo con un baracchino. Nel mio è reale, con 4,40, 9-10 pieno, eh. Ah, beh, allora. Tu c'hai questi Smith che non servono a niente. Cosa tu? Signor Radio. Nathalie, ma non lo senti a bombo? Sì, ma l'ho chiamato, ma forse la luna si fa a me. Tu a distretto, Nathalie, già a distretto. Chiama a gara. Sta succedendo che Nathalie non si l'ha potuto. Sì, Nathalie, non c'è un'antenna della finestra di macchina, mi. Più o meno il tuo stesso sistema. Oh no, ma lo sento segnalato bene. Felice. Oia, oia, non vogliamo l'antenna in chi, si sa chi può. No, è da giudizio che io non mi monto canna da pesca, mi Nathalie. La canna da pesca la tratti, va andare un mollo a piccare. Io tratto antenni, antenni. A proposito, mi devo rinnovare il tesserino di pesca. Quanti devo fare il tesserino di validità? Volendo, basta che mi diano la pensione. Questi voglio, cazzo, mi sei che ne rinai. Anche io, Marco, lo devo fare. Scusa, il tesserino di validità? No, quello di pesca. Gianni, quando mi porti a pescare? Quando mi porti il tesserino, mia. Ascolta, il mulinello me lo sistemi, che è mezzo inchiolato? Sì, lo vediamo. No, no, già gira, però è un po' duretto, vorrebbe lubrificato, eh. Se mi si grido e già la lenza. No, ci vuole quel grasso apposito. Io neanche metto il CRC e buttato. No, c'è mangiare la canna a pesca, c'è la canna a pescare. Di quelle mi hanno regalato a Franco, l'unica cosa mi ha regalato. Con tutta la roba me ne ingrancito, almeno una canna a pesca mi ha regalato. Allora, a me lì. La canna a pesca bella, bella, non è molto grande, ma comunque mi va bene. Ma ci va anche bene. C'è il mulinello della Daiva, buono. Che l'ho preso lì da forbice, da lenza, tutto, è già armata, tutto. Non lo so. Poi ora vai a tirarla, pesarla e lubrificare le cose, poi già quando vogliamo andare, una sera, andiamo. Panini, bottiti, birra, la tappignara le facciamo fare il pipistrello così attira i pesci. No, ma stiamo andando a pescare o a mangiare, non ci compresi. Ascolta, io vado a dire a Gianni, va via con Gianni, va via di tutto, un Natalino, di tutto, panini, la birretta, di tutto. Ci fumavamo due pacchetti di sigarette, però c'eravamo di tutto. Allora, facciamo così. Ma non sei cazzo di usato, che se siamo prima di chiudere questa, fare i bagni. Ma che? Oh yeah! No, allora facciamo così, porto il mini braciere e il pesce pescato lo arrostiamo al momento, lo spanciamo e lo arrostiamo al momento, sulla brace. Vai, vai, noi andiamo a calamari, calamari a pesce, capito? Io non ce l'ho buono, mi ha insegnato un po' Gianni Franco, con la carina, la va, ma io quando non pescavo, Gianni pescava sempre, io quando non pescavo aspettavo che rientrasse il peschereccio, come parcheggiava e se ne andavano tutti mi pulivo la rete. Canale alle 10 è sempre pieno di gente, e questo mi fa piacere. Bravi ragazzi, continuate così. A domani però, dai, che è tardi, vado a cenare, e poi televisione e nanna, che domani me la ci piace di zinco, la massa delle nevaria. Ciao a tutti, buonanotte. Gianni, a te il cambio, fai girare. Ciao Gianfranco, vedi che io ti saluto sempre, anche se non ci sei, ciao. Ma scarica, è buona continuazione. Ciao, ciao, ciao, che anche io devo andare a cenare, la cena è già pronta, e quindi vado. Andare, ci sentiamo, saluto a tutti. Ciao. Ciao, ciao, buona cena. Ciao Gianni, ci sentiamo. Ciao Gianni, ciao Claudio, ci sentiamo, buonasera allora, a tutti e due. Quindi, diciamo, ci siamo rimasti, ci è rimasto? Dopo un attimo, ho capito, vabbè, non so, non so se c'è un ciclo battito, ti dici tu? Sì, saluti a Claudio e a tutti, così sono, facciamo la maggiore. Ciao, vada, mi incominciamo da questo corso. Mi sono messo, lei letto dalla parte opposta per le riposte. Ci ci ho messo due computer portati. Ho fatto tutto il mondo, funziona. Sì, ho fatto bene, io stavo d'accordo qua stamattina. Poi fai bene, ha fatto un gas, il coso, il laboratorio, lui ha fatto il giro, sai qualcosa a finire la giustizia. E appunto per quello che fa la data con quello, adesso voglio che aspetta là. Rientrato. No, no, no, no. C'è una notizia che cambiando la torre, ho lasciato un piatto, certo? Oh. Cosa ho uccidato questo cazzo una notizia? Quando vai c'è un piccolo che cammina a prendere per i fatti suoi, il pallone. Oh no, chi soldi, dai? Adesso se la faccia più mi mettono una tappa, era attacca a muro la lavatrice. Almeno non si muove più, cazzo. E se portate, si porta via il muro, si deve entrare, entrare. Molto bomba. Dimmi Marco, mangiando stai Marco? No, ho mangiato presto io. Alle 16:30, presto, per modo di dire, no? Ah, è detto, Sì, mi arrivi bene relativamente, ma la cosa è mia perché c'è una anche mandare a Natalino, la foto l'ho mandata di nuovo a Claudio, ci portiamo quello, mi. Mangiamo e beviamo. Lì ci sta bene, amico, il salsiccione mi è tutto arrotolato. Comunque io di questi barbecue piccoli ne avevo uno che era piccolo, si chiudeva, Antonetti, tipo fornetto si chiudeva, e aveva anche un borsone per trasportarlo, era molto molto pratico, però non lo trovo. Da quando mia zia ci ha messo mano, ha scombussolato tutto, non lo trovo. Devo cercarlo nelle varie stanze. Ma tu l'avevamo fatto? No, quello già, glielo ho detto, quello è nuovo e non va toccato. Perché è pagato ed è buono a buttare, e siccome non è pagata la roba mia. Magari te l'avevamo fatto, non lo so. No, l'avevo salvato io, mi. Che ricordi, l'avevo salvato io. Adesso, poi domani lo cerco, con calma, dai, tanto non serve adesso. Quanto c'hai tu, Marco? Io ho una Energy 5 ottavi della Midland CTE. Buona, è stata bella. Zona Cinema Ariston. Ho solo 4 watt, questo è omologato. Sì, ho capito, sì. Non abbia salvoglia, no? Sì, più o meno. Sì, io direi un giro lì. È già un freddo, questo. Già lo so, più o meno so come sei. Ehi, si vede la punta dalla strada, dai. E prendi Pomponia. Aspetta, sì, si è anche trasportato 5 minuti, vediamo. Arrivo subito. Ehi. Ma oggi, perché io giro con la Pompone, quindi passo da per tutto. Già che ci hanno intravista la testa. Ehi, aspetta un attimo che... Dunque, Gianni Ropiru, no, non le ha lette ancora queste foto. Gianni è come che non ne abbia WhatsApp. Lo legge 2 giorni dopo il messaggio. No, io lo leggo subito. Ehi, lui poi sciura il telefono a quest'ora, ma capito. No, non risponde il figlio. Chi ha risposto? Natalino. Abboggiami. Guarda, mi ha mandato una foto, tutta roba arrosto, carne arrosto, salsiccione arrosto, di tutto c'è, di tutto e di più. Cos'hai, Natali, quella roba? Dimmi cosa tutto c'era. Ah, Gimino comune. Ah, ecco, sembrava salsiccione. Ogni arrostita, mi, giù. E l'altro cos'è? Fegato, quello grande a fette, o carne normale a fette. Oh, mamma mia, non si può stare qua, cazzo. Eia. Aspetta che alzo lo squelch, eccolo qua. Bene. Dai, Natalino. Io quasi sono le 9:03 quasi. Mi sa che mi guardo un po' di TV, dai, ci sentiamo domani. Comunque lascio tutto acceso qua. Mi pure io sto chiudendo, dai. Ciao, ci sentiamo ragazzi. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao Natali, buon tutto, dai. Ciao anche Bombolo, ci sentiamo. Entra di più perché non entri così mai. E ciao gli ascoltori, dai, a tutti gli ascoltatori. Antonello anche, dai. Esci a vedere. Altro messaggio, esci a vedere. Mamma mia, guarda che bastardo Natalino, mi ha mandato i gamberoni arrosto per farmi schiattare. Sì, va bene. No, perché prima ho fissato un po' più col baracchino. Ah, c'è il baracchino. mattina sto pensando che faccio oggi. Oh, meglio visto che sei fumarani anche tu. Ah, i gamberoni mi hai mandato per farmi schiattare. Quando mi faccio che mi fa prato, se ci vuole. Dai, buonanotte a tutti, dai. Ciao, ciao. Eia, ciao, ciao a tutti, dai. Oh, lasciati la mano quando è accesa Ah no, mamma mia, la mano arrosto ti fa, è piccolino mi dico, Natali, sono quelli che costano 10 euro, non l'ho mai usato, è nuovo, e poi devo trovare quest'altro bracciere che si chiudeva come un fornetto, e c'è la borsa per trasportarlo, ce l'ho da qualche parte, guarda, lo devo trovare, e quello è comodo perché ci puoi mettere già la, tutto dentro, ci puoi mettere già la, il carbone dentro, capito? Apri e accendi, non devi fare altro. E noi ci mettiamo, ne compro uno io di questi, andiamo a cena lo compreremo, e ne accendiamo due, là. Uno pulivo la marca rossa, un gatto al collo, e nell'altro un gatto al collo. Ma voi se non ti fermo, non mi fermo, se no non ti ho mai dato un marco. Te ne immagini, passa gente, ci vede Magnelli, consumigliando, magari si aggrega pure gente. Invitiamo quella signora che abita lì alla rotonda, poveraccia che mangia poco. Vabbè dai, comunque sì, tesserino magari non subito, però lo voglio rinnovare appena migliora il tempo, proprio che si può andare a pescare. Vorrei riprendere anch'io, se c'ho la lenza da cambiare nei mulinelli perché è fradica, c'è da secoli. Oh, io lo sciacquavo sempre la bobina, però sai come, ci sono da anni e anni, meglio cambiarla, no? E tu vedi che l'Italia prende la cambiata con la bobinella, se ci sono tanti anni cambiala, no? Io mi dico, non si fa per lavare il costurino, perché io ce la dono, ma non mi hanno detto cosa di usare. Sì, forse ho il collegamento, forse ce l'ho già. Bisogna andare sul sito delle politiche agricole e cercare il collegamento che riguarda la pesca e mare. Dopo guardo se ce l'ho, capito? E ti mando il link alla pagina dove tu devi mettere nome, cognome, tutto, no? E loro ti fanno vedere questa pagina con questa... dove c'è questa immagine da stampare, si stampa tutta la pagina con questa figura di tesserino, se la porti appresso, poi se ti vuoi plastificare la pagina te lo puoi anche fare, in qualche cartoleria chiedi, così non si rovina con l'acqua, sai, con l'umidità. Della canna, così è. La canna non lo scendo da sotto. Hai già capito, Leia. Sì, almeno invece di stare sempre lì sul baracchino di notte, io posso mettere anche la lampada a gas a disposizione, l'ho comprata nuova, per avere un punto luce la puoi anche regolare, minima, massima la luminosità, capito? Fanno stare al buio, come si suol dire, al buio. Sì, ce l'avevo anch'io con la lista che si è andato. Intanto dovrò quello di tutto. Il braccio me lo compro, che serve anche per qua, non la usura. Ma fuori dove? In strada. Perché voi arrossite in strada in generale, cioè da quelle parti si fa così. Sì, tu non va. Io va qui giù. Perché se lo faccio qua in strada arriveranno i carabinieri subito. E qua mamma mia, carità. Già nel terrazzino non c'ho il coraggio, perché ti spiego, no, questo è sotto, c'ha sia il caminetto che un forno per arrostire, per fare roba, no. Se lo fa lui va tutto bene, se lo faccio io il terrazzino, vedrai che mi bussano alla porta, quelli di sopra, capito? Perché quando l'amico suo lo fa va tutto bene, se lo faccio io mi fa un casino. No, magari no. Magari no, infatti un giorno potrei fregarmene e farlo. Poi casomai si dice, vabbè, quando lo fa l'amico suo che fa fumo va tutto bene. E allora, certo non ti sparano, no, per fare un po' di arrostino, di fare un po' di gamberoni arrosto, no, cazzo di gamberoni arrosto con la brace, mamma mia. Questa sta rubando ancora i croccantini, mi. Vedi, c'è chi ci ha detto di lasciarli aperti, mamma, anziché chiuderli, no, per mantenere la fragranza, li lascia aperti e poi diventano molli molli. Per esempio, avevamo comprato la colomba, no Pasquale, la colomba, per anche la colazione, no, l'ho lasciata aperta, sono entrate moschine e adesso io non le mangio più, erano, sono andati moschine, no, i siti, quelli con i siti che girano adesso, e non le mangio più, mi dispiace. No, non credo, dai, se puoi, capito? I noghi, vabbè, è un macello, è tutto un casino qua, capito? Beh, Natali, dai, vediamo se c'è qualche film bello, ci sentiamo domani, dai. E anche questa maledetta domenica se n'è andata, dai. Ok, dai, ciao Natali, buonanotte, buonanotte anche all'ascoltoni. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,